divine suo cor dipinge on Dio si mite mentre delle sue colpe e fu piegato. Ora così si vero un Dio sdegnato a lei dimostrarò che al fine astretta serrà senza soccorso alla disperazion sera del morso. Piangi tu, piangi sì sì, piangi, piangi sì sì. Ma non sai, se le gange del mostrate tu versasti da tui laumi lampi fiori, nel tradito suo signore fai placato, tu non potrai a vendetta, la vendetta. Che follia di menti ardita, lo spero. Pietaria ita, ma quel cor si tradì. Piangi tu, piangi sì, piangi, piangi. Fra quest'ombre innocenti, con zaccarelli di accenti, chi mi furba la quinta? Il re del giorno, e a te di sciolzi il velo, per disvelarti oria, che folle e ben quel cor che spera in chi tradì pietà e amore. Se non fiero terranno, se prespera in piedi mani non è morire, come sperar non devi del mio cor d'un Dio tutta pietà, se li ammassi il tuo cuore, la colpa anche a Maria l'immenso Dio, se della colpa il sol ricetto rio. Sama un'alma pentita nelle sfere il motore, ama in quello il suo amore, e non già della colpa il mostro impuro. Giudice severo, che nome che offendesti, ricordati, o Maria. Manco il padre. Come giudice oria, sì sì ti punirà. Come padre, sì sì sempre. Essere un pietoso, un giudice sagace. Dal grembo sol di tua, che tu non ne creò, al vago aspetto di pure sfere che l'alte sfere il gran matò. Specie al giubilo, al vago aspetto di pure sfere che l'alte sfere tormentato aspetto, son costretto a partire. Sì, sì, parlo, fuggo, fuggo e non lo richi, ma c'ho tregua, non spero, non spero. A tu tregua, non spero, non lo che costante, costante, costante in svidirsi sarò, costante, che costante in seguirti sarò. Partì al fin di cocito quella belva sirria. Si dolci martiri e speri e spiri, ma che veggio che ammiro, ecco sosi ma io miro che dal cielo a te appresto il cibo eterno, a ciò vinca con questo il re d'Averno. Prendi dunque, o Maria, questo dolce tesoro che d'amor di clemenza opera e lavoro, della fe con i rami qui tu ben vedrai, e la vittima e il nome e il sacerdote. Mira che per vite si rudi brevi note in picciol ve l'immensità nasconde. Ma più ammiro, Maria, che se l'immenso Dio per darti il tutto fecondo fe già in noi, ora per darti il tutto nulla. Questo orride forrello